Pubblicata sulla rivista di poesia contemporanea Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambolino, una nuova poesia di Luca Sardo Giambolino dal titolo Speranze. Le speranze del domani si infrangono sugli scogli dell'oggi.